va ora in onda Piazza Alta, un programma di e con Sara, Marsi, Enzino e alla parte tecnica Simone. Buonasera e ben ritrovati a tutti voi simpatici amici. Questa è Piazza Alta dal 1976. Lui è Enzino. Ciao, e ciao. Quello di prima. Ciao simpatici amici. Questo è Marzi, i miei compagni di viaggio. La parte tecnica Simone. Ciao. Bravo. Prende su più, sempre più padronanza del mezzo radio. Bravo, mi piace perché sei partito con la sciolta. Sì. Bravo, con la sciolta. E allora, questa è la settima puntata di Piazza Alta, nonché seconda puntata del 2014. Dal 1976. But your mama don't know. Who is me? Shaman scandal in the family. Who is me? Shaman scandal in the family. A week went by and the summer come round, and soon the best group in the island they found. He went with his papa to name the day. Papa shook his head and sister, but your mama don't know. Who is me? Shaman scandal in the family. Who is me? Shaman scandal in the family. Oh, you. Allora, abbiamo iniziato questa sera con un brano di Giuliano Palma and the Blue Beaters dal titolo Shame and Scandal. Ora però questa è l'unica canzone che nel disco da cui è tratta, che è Long Playing, questa canzone non era cantata da Giuliano Palma. È un era po' l'unica... per questo che ci piace sta... questa... ci è piaciuto Palma e tutto il palmetto, che ci è piaciuto veramente tanto. Però ragazzi, Giuliano Palma non è più con i Blue Beatles. No, sai, no. Quando me l'ha detto fuori onda mi ha fatto prendere paura, perché ha detto quando Giuliano Palma ci ha lasciato. No, come dico ci ha lasciato? Io non lo sapevo. Io no, ho detto se n'è andato. Se n'è andato. Non ci ha lasciato. E non ritornare un po'. No, però i Blue Beatles ci sono ancora, sono in tour in Italia, si sono riformati, anche Giuliano Palma. Anch'io sono stato riformato. Però sono un po' più tranquillo, guarda. Perché sì. Questo nostro avvio in scioltezza, come voleva, aveva cercato inutilmente di dire Enzo. Ti senti più leggero? Sì, infatti stavo guardando come ci possono ascoltare. Guarda come è partito in tromba stasera. Lo posso dire io? Ma dillo, vai, Marzi, in tema. Vai. Scaricando la nostra app. Brava, sia brava. Su Apple che per Android. Bravo. Oppure, poi no, tradizionalmente... su Apple, per Apple e per Android. Già studio settimane per mettere andando, tre parole in fila. Stava andando bene con l'aiuto Sara. Del suo analista, non lo come faccio sempre mai. Salutiamo l'analista di Marzi. Ciao analista di Marzi. Allora, ritorniamo. Poi dunque, dopo aver scaricato le app, tradizionalmente sulla nostra frequenza di Radio F la 101.2 e sul oppure... sito www.radiof.it. Ma da quando? Da quando? E da sul sito in streaming. Da quando? Da domani quando si sveglia. No, dal 1976. E gli scusate, ci vuole la bocco stasera, gli ci vuole la bocco. Perché Marzi, seguimi, da domani ci possono riascoltare su sulla nostra pagina Facebook Piazza Alta. Tra l'altro vorrei ricordarvi, forse a chi non è ancora andato sulla nostra pagina, abbiamo oltre 220 amici che ci ascoltano, è vero? È vero. E li salutiamo tutti uno per uno. Ma perché sono assetati di cultura. E infatti sulla nostra... hanno capito i nostri amici che hanno struncato ai like su Facebook che qui a Piazza Alta giovedì sera c'è cultura. Ma non solo il giovedì, perché se avete visto mettiamo anche per esempio la domenica abbiamo iniziato una nuova rubrica, sì, con i consigli, le proposte una per domenica il fine da settimana. Leone che è una cosa un po' a seguire il mattutino ai vespri. Bene, dicevamo appunto queste proposte musicali, cinematografiche, esatto, teatrali, di tutto di più, veramente spaziamo alla grande. Stiamo postando anche dei film veri e propri, domenica scorsa Made in Italy, che io mi sono guardato, che è di una bellezza travolgente, che vi invito tutto ad andare a vedere. Tu sei guardato i primi due episodi. A proposito di film, l'argomento di questa sera voglio te. Ma prima di dire l'argomento di questa sera, permettimi, caro il mio Marzi e cara la mia Sara e caro anche il mio Simone, di salutare un po' di amici che ci stanno ascoltando, i cantieri del Carnevale di Foiano, che costruiscono, sono in pieno fermento, ma che ci ascoltano tutti e quattro, vero? E che vogliamo salutare. Salutiamo tutti e quattro e gli teniamo compagnia in questa serata di preparazione del carro. Salutiamo anche un'attività, è vero, aperta in questo momento, un bar di Foiano importantissimo di cui non possiamo fare nomi, la Costa di San Rocco, che ci sta ascoltando in questo momento. Quindi un saluto anche a tutti gli astanti e dopo astanti, e che tra l'altro ci incoraggiano prima di ogni puntata, perché quello è il nostro punto di ritrovo per caricarci. Offrendoci quindi un ginseng, cioè offrendoci, pagando un ginseng. dai perché Enzino è passato al ginseng, questo ve lo I dico di straforo. Si sente, no? Sì, senza dubbio. Ma Marcello, bene, ma Marzi... sì, dici, Marzi, devi salutare qualcuno. Tu avevi sempre degli amici da salutare. Sì, erano tutti maschi, quindi non saluto nessuno. No, in realtà questo voglio salutare due persone, sono femmine, vi stupisco, Tamara e Nicoletta. Sì, l'hai inventato adesso, no. Te l'ho detto prima. Ma per chi mai preso? Marzi, tra l'altro per te si è fermato il tempo, lo so, a giovedì scorso. Con lo stesso maglioncino si è ripresentato, hai visto? No, ho trovato che, meraviglia, che sarà la mia uniforme radiofonica. Che gli ha portato bene, però stasera l'ha accozzato a una magliettina color arancione barra ocra. Fa pandan. Sì, e con pantaloni, vediamo, marroni come il suo inizio di puntata. Ma ora Marzi, però ci dirai di che cosa parliamo stasera e andiamo col prossimo brano. Allora, parleremo di cinematografia. Foiano è stato veramente lo scenario naturale di un film famosissimo, che ha ricevuto anche premi, Giovannona coscia lunga. No, ma ah, no, no. Quello nei tuoi sogni. Sì, sì. Albergo. No, in realtà è Albergo Roma. Che è il film che appunto è stato girato a Foiano e che quindi ha fatto conoscere Foiano, i suoi luoghi, a tutta la nazione. Per ogni dove. Era proprio in giro per il mondo. Vabbè, ma lo diciamolo. Da quando? Sì, sì, sì. Dal 1996. No, è vero. Musica. Sei rimasto deluso dagli esseri umani e non ne puoi saper più. Come un gatto di strada ferito non ti fidi di nessuno. E hai deciso che il primo nemico sarà chi con te è sincero. Oh, non c'è niente di più confortante del mucchio di palle in cui ti nascondi. Già visto, già letto, già rotto, già detto, già fatto, già visto, già letto, già rotto, già detto, già fatto, già visto, già letto, già rotto, già detto, già fatto, già visto, già letto, già rotto, già detto, già fatto, già visto, già letto, già rotto, già detto, già fatto, già visto, già letto, già rotto, già detto, già fatto, già visto. Non cerchi solo. E chiedi una mano, potrebbe stupirti quanto un amico sa essere umano. Già visto, già letto, già rotto, già detto, già fatto, già visto, già letto, già rotto, già detto, già fatto, già visto, già letto, già rotto, già detto, già fatto, già visto, già letto, già rotto, già detto, già fatto, già visto, già letto, già rotto, già detto, già fatto, già visto, già letto, già rotto, già detto, già fatto, già visto. Non cerchi solo. Zeman e il loro brano Se tornerà il sole. Tornerà secondo voi il sole? Grande Zeman. Zeman. Con che gente devo lavorare, ditemi voi. Però Zeman. Questa selezione musicale che tutti ci avvampa. Questa selezione musicale, il nostro Simone, tra l'altro, ci ha proposto questo primo EP degli Zeman che è uscito proprio in questi giorni, quindi siamo aggiornatissimi. Cioè, siamo sul pezzo, Ha riscosso successi qui a Piazzalta, non so perché. Perché noi siamo dei buon gustai. Non tanti. A marzi poi gli ci vuole tempo per, metabolizzare. Sì, è riflessivo. Però torniamo a noi perché questa sera veramente abbiamo tante cose da dire. E allora, dicevamo prima, stasera parliamo di cinema. Nello specifico, Albergo Roma, il film girato a Foiano. Allora ragazzi, io anche stasera vi faccio le domande. Sì. Prova microfoni, rapidissima, svegli. Questo è Marzi e quello dopo era Insino. Marzi non si separa mai dal suo maialino. È parte di me. È qui maialino. Aiuto. Non bene, dico però quali, vai. No, non ci interessa. Lo zampone. Non ci interessa perché, concentratevi, questa sera parleremo di uno dei momenti artistici più alti che ha toccato il nostro comune, Foiano della Chiana, appunto. Yeah. Con il film Albergo Roma, che sì, è un film che è stato girato interamente proprio qui a Foiano. Allora, io direi intanto, diciamo ai nostri ascoltatori quando... Si sta specchiando. Sì, si sta specchiando, meno male che non si può vedere. Allora, diciamo agli ascoltatori quando è stato girato Albergo Roma. Ecco, dopo essersi sono talmente specchiato convinto e risposto, di questa risposta che mi sono prenotato... In men che non si dica. Vai Marzi, vai. Albergo Roma è stato girato nel 1996 e da allora Foiano non è stata veramente più la stessa. In ogni dove, in ogni senso. Com'è? Come non è, come fu, come non fu. Poi è uscito nelle sale cinematografiche il 27 dello stesso anno. Bravo. Ma che giorno era il 27? Era un giovedì. Le cose importanti a Foiano. Ma il 27 di che? Settembre. L'ho detto. No. L'ho detto. No. Ma non stare a sottilizzare. 29 settembre. Ho capito. Quel buon sapore. Allora dicevo che il direttore... Siccome Marzi lavora in banca, ha un direttore a cui fare riferimento. Ancora non so per quanto, ma il direttore, colui che ha diretto il film, il regista stato... Marzi, il ma regista. Questo lo dici te che sei nel campo, no, nel rutilante mondo ma dello abbiamo spettacolo. Abbiamo detto che parliamo io di un altro momento artistico. Io che la mattina vado a lavorare, cara la mia Sara. Dal direttore. C'è polemica nell'aria. Ugo c'è Chiti. Sì, vai, dai che ce la fai, Ugo Chiti. Ti dirò che è ispirato alla sua opera teatrale Allegretto per bene ma non troppo. E da questa opera teatrale è stato poi tratto tutta la sceneggiatura di questo nostro film che adesso piano piano andiamo e allora, a raccontare. Enzino, ti sentivo fremere prima. Sì, perché volevi, lui è stato protagonista, ecco, aggiungere qualcosa. E allora io direi intanto parliamo della trama. Brava. Di Albergo Roma. Allora, Albergo Roma si svolge nel 1939 e praticamente in un piccolo paese della provincia toscana, in realtà Foiano, ma sì, scusate, ho bisogno c'è di movimento, esprimermi, c'è di esprimermi. Che sì. Cosa succede in questo piccolo paese? Fervono i preparativi perché arriverà da lì a pochi giorni il duce, perché deve inaugurare la sede di un'opera nazionale, eccetera, quant'altro. E questo che succede? Per questo evento si sta preparando anche la filarmonica del paese e uno degli orchestrali che sta andando alle prove della banda si imbatte in qualcosa di losco. O meglio, nella notte, d'insolito, nella notte il cane con cui sta andando alle prove trova un feto che lui e tutta la popolazione poi di conseguenza equivocheranno pensando che fosse un seto un feto di essere umano. In realtà poi vi do subito la fine della trama perché non vorrei che voi vi preoccupaste in questo momento. Dai, roviniamoci. Non trattasi di feto umano, ma soltanto di un feto suino. Se suino, non suino, suino, suino. Però in questo equivoco si svolge tutta la trama del film Albergo Roma. Sì, perché ci saranno pettegolezzi ingigantiti, tra l'altro da Tonchio, che è uno dei protagonisti, poi diremo da chi interpretato, e poi ci saranno altre vicende che si vanno a intrecciare durante tutto il film e che rendono un po' più avvincente tutta la storia. Ovviamente si arriverà alla fine, come diceva il mio caro Marzi, in cui scopriremo che non si tratta di feto umano ma feto suino, per cui il tutto si andrà a risolvere nel migliore dei modi. E la cosa simpatica e caratteristica sono i personaggi che, ecco, volevo proprio saperne di più. Nella piazzalta di Foiano si, come dire, vivono la loro vita e vivono questo fattaccio. Ogni praticamente personaggio ha un suo carattere, una sua particolarità che viene chiaramente ben delineata nel film. Racconto. E che racconteremo dopo, però. E anche questo film, appunto, aveva il suo centro a Piazzalta. Assolutamente, è ma tutto infatti ruota attorno a Piazzalta, ma infatti, non c'è niente da fare. Poi ne parleremo. A Piazzalta gli ruotano, No, intorno tutti questi personaggi. Bene, Simone, vai. Sound, I'm your lover. Davvero una bella voce quella di Toni, quest'artista femminile che abbiamo appena sentito nel brano dal titolo Sam. E questa è già un'unione tra musica e cinema, perché Sam Toni è conosciuta perché ha fatto parte del film Tutti i Santi Giorni di Paolo Virzì, e Virzì l'ha proprio scelta appositamente. Ma vorrei dire, cioè, secondo me Simone ci sta mandando anche un messaggio, perché prima Zeman, noto allenatore, adesso Toni, punta del Verona. Probabilmente stiamo parlando di calcio. Non ce la posso fare, se entriamo a parlare di calcio io non ce la posso fare, mi tiro subito fuori. Vorrei fare un'altra riflessione. Domattina, è arrivato Marcellino. Domattina, al vostro risveglio, cari radioascoltatori, il momento della riflessione. Ascolta, tutta questa, si fa sera. Tutta questa popò di cultura, tanto dove ve la mettete? Cioè, cose che nessun'altra radio al mondo, ma ci sarà un motivo, non ne parla. Ma Sara, come siete acidi? Siete proprio aciduli, più che acidi, vero? Sì, porci. Però ecco, dicevamo, torniamo a parlare di cinema. Prova a porci. Questo, vi porgo la prossima domanda. Vi porgo la prossima domanda, perché so che voi avete fatto una bella ricerca molto approfondita sul film Albergo Roma. Per Piazzalta ci impegniamo molto, andiamo ad approfondire, a sfrugugliare. Sì, dal 1900. E allora, chi è che sfruguglia? Insino? Sfruguglia Insino. Allora, senti Insino, entriamo in modo più approfondito in questo film, Albergo Splash. Roma di Ugo Chiti. Che tipo di film è? Non so se ti vuoi ricollegare al discorso che facevamo prima dei personaggi. Ma ti ringrazio, cara la mia Sara, per questa domanda. E ti farò te l'ha servita sul piatto d'argento. Ti darò una risposta forse all'altezza della tua domanda. Diciamo che abbiamo fatto appunto una ricerca davvero approfondita, io e Marzi, su quello che poteva essere il genere di questo film. E c'è chi lo definisce drammatico, ma noi non ci trova del tutto d'accordo. Bravo. C'è chi pensa sia più una commedia. Ma forse questo si avvicina un po' di più. Però in realtà quello che... Diglielo tu, Marzi. Noi reputiamo che la definizione più corretta, l'inquadramento cinematografico, anche astrale, sia grottesco. Ecco, esatto, è più grottesco questo film. Io ora, se volessi mettervi... Ma tu non ce la farai mai questa domanda. A noi mollica. Di descrivere il genere grottesco. Lo faccio io. Sono film che si ambientano all'interno di grotte. E con questo direi che possiamo che vengono anche stagionati in grotta, magari. Beh, come vero? Il prosciutto, direi. Perfetto, benissimo. Ma io sono convinto che adesso tu ci vorrei chiedere un po' i ruoli di questo film. Ecco, facciamo un po' una scheda tecnica, visto che qui stasera, insomma, vogliamo parlare proprio a livello alto. Facciamo una scheda tecnica di Albergo Roma. Guarda, regia. Il ruolo di Giovanna Coscialunga. No, ancora un altro quello va dopo Marzi, le 11. Marzi, no, che 11 ancora dopo è fascia protetta. Il cappello sulle 23. Allora, dunque, la regia, il soggetto e la sceneggiatura sono tutte del nostro caro amico Ugo Chiti. Che è di toscano, Toscanaccio, dirige un teatro proprio in quel di Firenze. Vedi Marzi, stavi a casa, stasera, per esempio, questa cosa non sarei riuscito a saperla. E poi dici un po' di attore, Marzi, dici. Oh, c'era Alessandro Benvenuti nel ruolo di Tonchio, che tu hai menzionato poc'anzi. Deborah Caprioglio nel ruolo di Gine Criste. Ora non scendo nei dettagli nei particolari, chiaramente. No. Maria Cristina Macca, famosa nel ruolo di Peppina, e la grande interpretazione di Claudio Bisi. Dove ce la vogliamo mettere? Abbiamo nel ruolo di Danilo Giorgini, ma ora senza entrare collegare troppo vado un po' più veloce. C'è Cieco Cario, che dopo questa interpretazione ha smesso, soprattutto dopo come l'hai chiamato te. Comunque, che interpretava il federale Apolloni, e nel frattempo Marzi è diventato dello stesso colore del maglione. Marzi, riprenditi, vuoi un po' d'acqua? No, sono stupefatto della ignoranza che vi pervade. Non ce la faccio più. Che situazione. Andiamo. Musica. direi che il titolo di questo brano è abbastanza chiaro: Digging This Song. Loro sono Alice Tambourine Lover, è un duo rock folk blues formato da Alice Albertazzi e Gianfranco Romanelli. Basta un po' di musica per riportare per riprendersi, la serietà. Sì, allora qui la situazione era critica, l'avete sentito, però penso che sono avrete capito che insomma qui noi ci divertiamo alla grande, soprattutto con calma. Insomma, ho due compagni di viaggio decisamente stravaganti. Sciocchini. No, perché sciocchini? No, stravaganti. Grazie, Sara, troppo buona. E allora io mi riallaccerei, Marzia, sì, al discorso di prima, dove ti eri interrotto, sì, caro. Parlavamo di personaggi e di interpreti. Dunque, quando mi avete interrotto, cari. No, non noi, tu ti sei interrotto. Stavo enunciando i grandi attori che hanno partecipato al film di cui parliamo stasera, Albergo, sì, Roma. Ero arrivato, poi mi avete interrotto. Eri arrivato, vai, andiamo avanti. Perché... A Giorgio Panariello, ecco, Carlo, sì, Monni, Alessandra Acciai, Davide Bechini, Lucia Poli, Laura Trotter, Lili Tirinnanzi. Pensa che cast che Albergo Roma ha raccolto in Piazza Alta a Foiano. Bravo. Albergo Roma ha raccolto anche dei premi e delle nomination. Un importantissimo premio come miglior attrice non protagonista. Lucia Poli ha vinto il nastro d'argento. Mica il nastro E l'attrice adesivo. Se non la metti nel contesto giusto, nella scenografia giusta, bravo, i premi non li vince. È merito anche di Foiano, bravo, che Lucia, bravo, Poli ha preso questo, ma poi nastro d'argento. Nomination per Ugo Chiti come regista esordiente, per il Davide di Donatello, e ancora il nastro d'argento ancora come miglior regista esordiente. Stasera parlo benissimo. Il miglior soggetto sempre di Ugo Chiti e la miglior fotografia di quel Blasco giurato che tanto caro ci fu all'Ermo Colle. Beh, ma scommetto allora, che adesso ci fai un'altra domanda. Sì, perché tu giustamente, Marzi, prima dicevi un attore, un'attrice può spiccare all'interno di un film se la scenografia si presta, diciamo, anche a costruire delle belle situazioni o comunque, insomma, a rendere ancora più piacevole dal punto di vista visivo il film. Esatto. E allora, Marzi, dimmi un po', quali sono le location del film? E visto che ci troviamo a Piazzalta, e questo è il titolo del nostro programma, perché fu scelta questa location? Allora, devi sapere, come sicuramente chi conosce Foiano e Piazzalta sa, ma chi non lo conosce è pregato e è invitato a visitare, Piazzalta fu scelta perché ha una conformazione particolare, è chiusa su se stessa, un po' come il foianese, no? con tutte le finestre a guardare il centro della piazza, un po' come il foianese, no? Chi che sta lì a guardare? Sembrò a Chiti, sembrò subito un palcoscenico naturale perfetto. Tra l'altro, anche perché c'era un loggiato, esatto, di Vasariana di Noia, che come fu, come non fu, come non è, appariva proprio come un piccolo microcosmo all'interno del quale muovere i personaggi del racconto, che poi non era altro che la naturale trasposizione della sua pièce teatrale. No, perché Ugo Chiti viene dal teatro e insomma e lì ritorna perché continua a fare teatro. Ma infatti praticamente era già tutto lì: la torre, il palazzo comunale, la chiesa, le case, il palazzo nobile, mentre, esatto, altre location al di fuori di Foiano, che furono comunque molto importanti, altre scene sono state girate al Pozzo, esatto, all'esterno del cimitero e al Tempio di Santa Vittoria, e ad Asciano, famose le fonti. Però è importante anche a Foiano l'interno della chiesa, che non è quella della collegiata, che appare invece nell'esterno, ma quella di San Francesco, il nostro vecchio ospedale. Ah, e con questo direi che ti abbiamo dissetato la tua sete di... Sì, direi che dal punto di vista della scenografia sei reintegrata. Sì, posso ritenermi soddisfatta. Se lo sono anche i nostri ascoltatori, ce lo diranno, magari se volete interagire venite con in Piazza Alta, noi, tanto noi ci trovate qui. Certo. Venite, oppure Piazzata, siccome c'è la nebbia, è umido, non si è con questo tempo, scriveteci su Facebook. Ma c'è il calore di Radio F dal 1976. When you're on a holiday, con questo brano siamo arrivati fin negli Stati Uniti. Loro sono i Weezer e il brano è il titolo Signora Lori, arrivato il correttino. Dopo il brano errore, anche l'annuncio errore. L'annuncio errore, signore. È arrivato. Mi cade su Weezer. Stasera Weezer. Con le pronunce. Andiamo alla grande, serata pronuncia. Bene, fantastico. Marzi, ti senti con le cuffie? Assolutamente no. No, ma io non c'entro no, stavolta. Ma il mio mi sentite sul microfono? Sì, sì. Forse se alzo il volume mi sento. Oh, grandioso. No, il mio analista ha detto che ogni tanto se perdo il contatto con me stesso è normale. Sì, ma parla al microfono però, sì, non parlare con te stesso. Siamo qui. Parlo, bene, aspetta, parlo un po' con me stesso. E allora, io passerei oltre i Weezer. Sì. Sì, comunque il brano, diciamo almeno il titolo del brano, che era Island in the Sun. Fantastico. Permettimi, e cara, allora, la mia Sara, sì, di salutare un paio tre persone che ci stanno ascoltando e che ci salutano. Vai. Che sono Monica, ciao Monica, ciao. Rachele e anche Riccardo, che è intervenuto un paio di settimane fa in diretta con noi in un memorabile collegamento da Milano, e ci sta ascoltando appunto da Milano, e ha commentato un paio di foto che abbiamo pubblicato degli attori che hanno fatto Albergo Roma. Grazie, ciao, e continuate ad ascoltarci, perché la trasmissione... Io lo leggerei il commento, così anche un modo per ricordarlo. Lo faremo anche poi alla fine della trasmissione, ma uno degli artisti appunto menzionati prima da Marcello in modo corretto è Carlo Monni, che ci ha lasciato quest'anno, che tanto ha dato... L'anno scorso, perché siamo nel 2014, e il mio psicanalista, anche lui me lo dice a me, ci ha lasciato lo scorso anno, è un grande... Indimenticabile. Ha fatto dei ruoli veramente fantastici, fra tutti il più grande, Vitellozzo, Nino Ci Resta Che Piangere, ma che poi tante volte è venuta a Foiano, ma di questo ne parliamo dopo. E quindi Riccardo, sì, ha commentato dicendo grande Carlo Monni, ma... E siamo tutti d'accordo. E allora torniamo ad Albergo Roma. C'era anche Carlo Monni. Prima parlavamo appunto di Piazzalta, della scenografia e così via. Però, simpatici amici, ora il film è ambientato nel 1939, un periodo molto particolare. Sì, in un periodo particolare, però quando è stato girato il film ormai era la fine, diciamo, del XX secolo. Esatto. E allora, come è stato messo insieme la modernità, quindi la contemporaneità, meglio, di Piazzalta, domanda, sentite come ve la infiocchetto, sì, sì, con quel periodo particolare. Enzino, tu hai visto la preparazione della scenografia? Ma diciamo che Albergo Roma è stato propedeutico per la mia genesi artistica. Lui faceva dopo la parte due parole. Se ricordo bene, Enzo, facevi la parte del camerino, no? Sì. Bravo. E io ho assistito alla preparazione del set. Devo dire che Piazzalta, diciamo, era predisposta veramente per essere un set cinematografico degli anni 30-40. Però anni, c'erano delle piccole modifiche da fare, perché si vedevano dei film. Sono presenti tuttora dei film della luce e delle illuminazioni che non erano coeve, cioè questo, ragazzi, che non erano di vasariana memoria, esatto, brava, e quindi andavano nascoste, indimenticabili alcune scenografie con cui appunto hanno celato questi fili, queste luci, che erano talmente belle che addirittura i piazzaltini foianesi speravano che le lasciassero poi una volta finito il film. Ovviamente, essendo di vetroresina e cartapesta, non potevano essere lasciate sul posto e, ahinoi, furono smontate. Ma a questo va aggiunto la partecipazione straordinaria di artisti naturali che si sono poi rivelati tali proprio anche con questo film. I foianesi. Come fu? Come non fu? Chi erano alcuni di questi? Ecco, sì. Allora, diciamo innanzitutto che in qualità di comparse c'è stata un'affluenza, direi, di massa. Una moria. No, una moria è un po' eccessivo. Comunque c'è stata una grande partecipazione artisticamente parlando. Allora, indimenticabili, quelli che si sono distinti di più, Marzi. Indimenticabili il Picche nel ruolo del macellaio. Ah. E il Bartoli detto Cazzino. E qui sono tre sedute d'analista. Si narra che sia divenuto agli onori della cronaca per diciamo delle attenzioni particolari a cui era oggetto da parte del truccatore della troupe. Pare di sì, è vero. Altra persona mi è venuta in mente adesso, non ce l'avevamo preparata, ma altro artista nobile, Paolo Bernini, detto lo stregone, che ha fatto anche lui la sua bella comparsata. E a questi poi tutti gli altri foianesi che direttamente o indirettamente hanno partecipato e appaiono nelle scene del film. Altra cosa che ci rimane ben impressa, ma quantomeno che rimane sì. ben impressa a me, è la disponibilità di alcuni attori durante le ecco, riprese. Perché insomma ce n'erano di attori già affermati all'epoca. Io... Lucia Poli, vabbè, Lucia Carlo Bonni, esatto. Giorgio Panariello magari un po' meno perché era stava facendo aria fresca. Però e allora era già molto conosciuto. Sì. Ecco loro come benvenuti si comportavano. Benvenuti alla Versiliana. È un salotto. No, beh, direi che, quello che mi ricordo meglio di tutti è Claudio Bisio, che comunque stava iniziando a presentare Zelig, quindi anche lui stava diventando molto famoso. E poi era reduce da un tris di film eccezionali, tra cui Sud, vado a memoria, Mediterraneo e Porto Escondito. Porto Escondito, ma soprattutto Mediterraneo, comunque hanno vinto l'Oscar. Yeah. E mi ricordo una sera freddissima qui proprio in Piazza Alta, mentre aspettavano di girare, c'era sia Panariello che Claudio Bisio che stavano a parlare tranquillamente con gli astanti che osservavano le riprese e erano veramente molto disponibili. A questo proposito poi c'è stato, oltre al film, alle riprese eccetera, c'erano anche i fuori onda, amicizie e rapporti che sono nati proprio durante le riprese del film e sono continuati anche dopo. Memorabilissima. Sul gossip. Beh, no, ma questa è storia. Il gossip è qualcosa, questa è di storia, diverso. Cara, e la quindi... mia Sara, cari nostri amici, perché Benvenuti si innamorò artisticamente, dopo averlo conosciuto, di un piazzaltino graziano, tale Gramazio, sul col quale faremo una puntata e lo inviteremo in studio perché è indimenticabile quello che fa. Ci attrezzeremo. Esatto. E perché lui era famoso? Ecco, perché che lui cosa colpì Benvenuti? Esatto, lui simulava i suoni, riproduceva i suoni meccanici dei camion, delle Ferrari, dei robot. Famosissimo il camion quattro assi Viberti, immemorabile. Lui, una volta scoperto questo, se ne innamorò artisticamente al punto tale che se l'ha portato anche in tournée, gli ha fatto fare uno spettacolo e ci fu anche uno speciale sull'allora Video Music, dove fecero uno speciale tutto sul film, ma era improntato esclusivamente su Benvenuti e Gramazio. Signori e signori, il Red Ronnie della Val di Chiana è qui con noi. Ma poi, Enzino. Grazie cari, grazie. Dolls. All right. Yes, hello. My name is Mark. Not super rich. Did you know the president is super, super, super sexy? Automatic taxi stock, electric cigarette, love baby, hotel, rock and roll, the discotheque. Super Sex dei Morphine. Cominciamo a entrare, ecco, un po' sapevo, in sintonia. Lo sapevo che... No, in realtà questo brano fa parte della colonna sonora di un altro film, Viaggi di nozze, con Carlo Verdone. E quella era proprio una scena, insomma, diciamo sensuale, con ecco, Claudia Gerini. Se non sono vietate ai minori non li conosco. Bene, bene, bene. Allora, Insino, torniamo a fare discorsi seri. Insino, allora, scusate, ho sbagliato trasmissione, arrivederci. Perfetto, però dai, Enzino, torna in te. Pazza. Perché io prima idea. Sono rimasta affascinata da tutte queste curiosità legate sei la prima, ad Albergo Roma. Enzino, non ti gongolare, perché mi diventi rosso come le cuffie che hai alle orecchie. E quindi allora, mi raccontate qualche altra curiosità, qualche altro aneddoto da vera di Albergo sei Roma. Interessata alle curiosità, al gossip, non era dispregiativo. Allora, siamo dei professionisti, veri? Siamo andati a intervistare uno dei protagonisti foianesi di questo film. Parlavamo delle varie comparse, tra queste Alvaro Vitali. Alvaro Vitali. Ah no, scusa, ho sbagliato. Tra queste, perché? Arrigo. Il grande Arrigo di Foiano, che ringraziamo per il suo tempo che ci ha dedicato. E lo salutiamo. E lo salutiamo affettuosamente. Affettuosamente? Ciao. Ciao. Marzi! Ci sono? Marzi! Sì, la so! Ecco, la secondo me Arrigo dice quello che veramente è il cinema, perché si pensa a un mondo gioioso fatto solo di divertimento. In realtà noi attori che abbiamo fatto tanti film, sappiamo quanto sia faticoso fare film. Quanto sia faticoso recitare. È vero, questo che tu dici, Enzo, è vero, anche se è poco comprensibile. Ma è vera anche un'altra cosa: spesso quando c'è la mitizzazione dell'arte, degli attori e di chi ruota intorno al mondo dello spettacolo, tutto ruota intorno a te. È vero, però quello che sembra una cosa talmente lontana, alta, ora sto entrando in un argomento che non mi si addice. No, spesso viene arricchita dalla memoria o dall'aspettativa di chi guarda o di chi ascolta. Non so infatti, se sono riuscito. Ma guarda, niente, nessuno avrà capito niente. Allora era quello che volevo dire. Però io per assecondarti dirò: infatti, infatti, Arrigo parla di un'esperienza abbastanza faticosa, molto poco divertente, e forse potremmo dire, ma potrebbe sembrare esagerato, traumatica. No. Sicuramente impegnativa. Gli potrei consigliare perché? Un'analisi. Lui, perché gli è successo? Lui, per esempio, ha partecipato a una sola posa o scena per l'esame. No, non o scena. O scena per l'esattezza, per una scena, esatto, per una scena, quella finale dove la banda del paese esegue le prove generali suonando La Gazza Ladra di Gioacchino Rossini. Che succede? Nel film la banda si deve esibire di fronte al duce, come è scritto nei titoli di coda. Un anno dopo questa esibizione l'Italia entrerà in guerra. Ecco, Arrigo ricorda tempi di attesa lunghissimi, snervanti. Bravo. Il gruppo di comparse fu fatto arrivare sul set alle 8 del mattino e la scena fu girata alle 17 del pomeriggio dello stesso giorno. No, mi volevo tranquillizzare. Allora, il problema è che aspettare tutto questo tempo durante la giornata richiede anche più e più volte di rimettere mano al trucco. Esatto. Perché anche se sei una comparsa, devi però apparire al piano delle tue possibilità e delle tue caratteristiche estetiche, direi così, Sara. No, quelle che vuole il regista e il truccatore in questione, però. E allora che cosa è successo in queste 9 ore di attesa? Diciamo grande, grande distacco, diciamo. Briscola, tre setti, un bicchiere di vino, poi un po' di disaffezione al mondo dell'arte da parte delle comparse o di chi doveva appunto aspettare. Arrigo dice anche che praticamente le direttive venivano date da tutti, ma dai più collaboratori, ma quasi mai dal regista stesso. Ma perché, questo è di solito il regista via non può rivolgersi alle comparse. Di solito il regista è occupato con gli attori principali, quali io. Arrigo, che i registi attraverso la metempsicosi danno gli ordini a chi è poi ha bisogno del suo analista. Andiamo avanti. Arrigo ricorda ancora il grande freddo. Vedi che faccio finta di niente. Il grande freddo lo ricorda come un film molto bello. E in particolare, ecco, questa è una curiosità importante: la ruvidezza della divisa della banda. Le sue testuali parole sono state: ruvidissima al collo, sembrava quasi carta vetrata. E questa è una cosa che ci ha colpito molto. E mi sa anche a lui, perché gli è rimasta particolarmente impressa. Però lui dice ancora che praticamente lui si ruppe talmente tanto che quando fu richiamato come gli altri per la scena delle prove in teatro, gli interni furono girati nel teatro di Castiglione Fiorentino, lui non andò, non si presentò proprio, perché si era proprio rotto le scatole. E capita anche questo. Ma s'annoia. Ci fu una nota di colore, Marzi. E che adesso ci andrai a dire. No. L'unica nota di colore fu l'arrivo di Deborah Caprioglio. Niente di hollywoodiano, per l'amore del cielo, ma la sensazione comunque che fosse arrivata un'attrice, ci diceva Arrigo, famosa. Qualcuno dice che fu vista, e qui la leggenda prende campo, che fu vista arrivare su una Porsche e che scese di macchina tutta impellecciata. A sentire la testimonianza di Arrigo, in realtà assolutamente non risulta. È una costruzione dell'immaginario, assolutamente. Insomma, in ogni caso era comunque accompagnata dal manager, e l'alone un po' da star fu avvertito. In quel momento era infatti forse il suo momento di massima popolarità, e qui Marzi ne sa molto bene. Erano infatti passati non molti anni da Paprika di Tinto Brass e la fama della sex symbol era ancora molto sentita. Marzi se la ricorda ancora come gli è rimasta proprio impressa. Siamo un po' cresciuti insieme. Ci credo. Questo gruppo non ha bisogno di grandi presentazioni. Loro sono i Red Hot Chili Peppers e il brano che abbiamo appena ascoltato porta il titolo di My Friends, tratto dal primo album uscito dopo l'uscita, scusate il gioco di parole, dal gruppo del chitarrista John Frusciante. E a proposito di My Friends, permettetemi di salutare, siamo quasi in conclusione, Gabriele Boneg, Samuele Tornesi e Alessandro Carniani, tutti di Siena che ci ascoltano. Un bacio amici. E allora, simpatici i miei amici compagni di viaggio, siamo veramente in chiusura. Io però direi che prima di salutare i nostri ascoltatori, diamogli ancora un po' qualche spezzone del racconto che vi ha fatto Arrigo, perché so che ci sono ancora delle curiosità belle, perché succulenti. Perché, cara Sara, i film di successo si basano sulla gente. È la gente importante, sono gli attori e le comparse. E Albergo Roma ha portato alla notorietà altri soggetti oltre a quelli che abbiamo già citato. Elettori e elettrici. In questa nostra intervista Arrigo ci ricorda anche Beuto, lo Stregone e il Giaccherini, come altri che facevano parte della banda, certo, di cui abbiamo parlato poc'anzi. Poc'anzi. Allora, evidentemente furono scelti quelli che avevano dei lineamenti più caratteristici e in linea con gli anni 40, insomma. Il periodo. Con il periodo in cui era dove era ambientato questo film. Ma Enzo, voglio farti una domanda diretta. Ti ricordi Carlo Monni? Beh, Carlo Monni, cari miei amici ascoltatori, cara la mia Sara, caro Simone, caro Marzi, vicini e lontani, ha fatto la cosa più bella di questo film e ovviamente non è stata ripresa. Allora, vi spiego. Carlo Monni faceva la parte del prelato, del parroco del paese, e ovviamente da Piazza Alta, quando non girava scene, andava a rifocillarsi nel bar sottostante. Scendeva le scale, ovviamente non si cambiava di vestito, ma rimaneva con la sua tonaca da prete, quella che andava negli anni 40. Una di queste mattine in cui è andato a prendere un caffè, è entrato nel bar, c'erano due signore anziane sedute che, in quanto anziane, hanno salutato con rispetto il prete, secondo loro. Carlo Monni, che dire, il prete Monni, insomma, esatto, praticamente Carlo Monni, quindi attore nella vita, tutti i giorni, oltre che davanti alla cinepresa, non si è fatto pregare, e ha risalutato e benedetto le due signore e si è avviato al bancone. Le due signore che osservavano questo prelato Carlo Monni che beveva il caffè, lui prende il caffè, fa per berlo e si macchia, gli si versa il caffè sulla tonaca e si macchia. Ovviamente da buon toscano e da Carlo Monni, dopo essersi macchiato, l'abito di scena tra l'altro, quindi dramma totale, praticamente esclama una robusta bestemmia, un poemetto epico religioso ad alta voce. Ovviamente le due signore anziane vedono il prete in questa espressione consona alla sua, e sbigottite si sono alzate e sono uscite. Pare che non si siano più riviste in paese. Ovviamente loro non sapranno mai che lui era un prete di scena e quindi penseranno che le cose sono cambiate. Orbene. E allora direi che su questa immagine di fantastica Carlo Monni, che ci permette di ricordarlo l'anno ancora una volta, 1996, esatto. Allora direi che, insomma, di aneddoti ne abbiamo raccontati abbastanza, perché questo è lo scopo del nostro programma. Marzi, che cosa vuoi dire? Volevo dire che il prossimo film di cui parleremo e a cui tutti abbiamo partecipato sarà Ben Hur. Nella prossima trasmissione parleremo però di avremo bisogno di 4 ore di trasmissione. Perfetto. E allora, ragazzi, per chi vuole, ci siamo, no, è arrivato il momento. Panico, ragazzi. Ci è volata panico la puntata. Per riascoltarla, tutti voi, simpatici amici, potete farlo domani sulla nostra pagina Facebook, Piazza Alta, dove ci saranno anche gli approfondimenti legati al tema che abbiamo trattato. Lo ricordiamo, Albergo Roma, il film girato proprio qui a Foiano. E poi anche tanti altri consigli per il fine settimana, perché domani è venerdì. Seguiteci e tutti Piazza i giorni. Alta vi guiderà. Stiamo scrivendo anche un libro di cucina, quindi dei consigli pratici anche per la vita di tutti il decoupage dove ce lo vogliamo mettere? Ora dopo te lo dico. Appunto, bene, simpatici amici, a giovedì prossimo. Al viaggio prossimo, ragazzi, buon fine settimana a tutti e buon proseguimento. Dal 1976 avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con Sara, Marzi, Enzino e alla parte tecnica Simone.